Vorrei che tu brevemente ci raccontassi qualcosa di più sull'asino d'oro, su questa casa editrice che è legata al nome, quando si parla dell'asino d'oro o comunque si cerca in rete, è legata al nome di Fagioli, quindi Esatto. siamo nel territorio della psicanalisi, diciamo il Esatto. più famoso forse in Italia. Lui pubblica con Assolutamente. la casa editrice l'asino d'oro, ma c'è molto altro oltre a Massimo Fagioli. Sì, c'è molto altro, però hai detto bene, Fagioli è il nostro autore Di punta, fondamentale, si di dice. punta, principale, attorno a cui ruota la nostra produzione, possiamo dire, nel senso che noi abbiamo comunque deciso di fare questa casa editrice 3 anni fa, io e Lorenzo Che Fagioli, è il il mio figlio di socio, che è il Massimo figlio di Fagioli. Massimo Fagioli, abbiamo deciso di fare questa casa editrice perché c'era un'opportunità ed era l'opportunità di rilevare appunto il catalogo di Fagioli. Io Fagioli lo conoscevo da tanto tempo e sapevo quale straordinaria persona fosse, straordinario genio fosse. Dico genio perché secondo me così è. Hai detto bene, è forse uno degli psicanalisti, degli psichiatri, anzi, più famosi Psichiatra, d'Italia. infatti, più famoso e poi L'editore. legato anche, insomma, si sa quando si nomina Bellocchio, allora si nomina Fagioli, Esatto. Bertinotti, insomma, tutti noi C'è tutta sappiamo una il storia, mondo, no, che ruota attorno a esatto, una Fagioli. storia che ormai di 40 anni, Eh più di sì. 50 anni. E c'era questa opportunità e abbiamo deciso quindi di buttarci in questo campo. Io facevo altro, anche Lorenzo faceva altro, abbiamo comunque deciso di fare questa casa editrice e di cominciare questa avventura. Questo avveniva quindi 3 anni Questo fa, avveniva più o 3 anni fa, meno. nel 2009. Abbiamo pubblicato finora più o meno una ventina di libri, all'inizio piano piano, insomma, abbiamo cominciato anche per prendere un po' le misure, nel senso che appunto non era il nostro mestiere precedentemente. Devo dire che sta andando bene, per quanto insomma ci sia effettivamente crisi nel settore editoriale, sta andando abbastanza bene, diciamo che siamo in equilibrio, riusciamo a cavarcela, ecco, diciamo Perché così. i piccoli editori, appunto, come dici tu, attraversano poi in realtà alti e bassi negli Alti ultimi e bassi, anni. esatto. L'ultimo momento in cui ne abbiamo parlato è stata la fiera che si è Sì, svolta, più libri, più Più Libri, liberi, Più sì. Liberi, in cui appunto parlando con le istituzioni legate all'editoria ci dicevano che quest'anno è andata proprio male, insomma, una grande crisi, una grande flessione del settore, soprattutto per i piccoli e medi editori. Voi che siete appunto nati da poco, invece, come avete avvertito questa? L'abbiamo avvertita la flessione, ma tutto sommato, insomma, non è stata così drammatica come pensavamo. Siamo stati abbastanza fortunati, voglio dire, o comunque premiati dal pubblico. E niente, dicevo, la nostra casa editrice che ha preso le mosse dalla teoria di Fagioli e dal discorso di Fagioli, si è poi mossa non solo su quel terreno lì, ma ha preso le mosse da quello. Uno dei libri, anzi due libri che in qualche modo si legano a questo portrait di Joyce Lusso che abbiamo pubblicato l'altro anno e l'anno prima sono Lombardi e Fenicottero e un altro libro che è un dialogo di Saramago con un suo grande amico, un ritratto approssimato appunto di José Saramago. Questi due libri parlano entrambi di personaggi della sinistra molto molto importanti che come questo parlano anche di un rapporto con la donna in un certo modo. Se Quindi questo. dovessi descrivere la linea editoriale attuale dell'Asino d'Oro. Ma la linea editoriale attuale dell'Asino d'Oro propone una. Lasciami, insomma, se vuoi un pochino una cosa un po' azzardata da dire, però noi ci proponiamo di proporre una sorta di nuova antropologia, diciamo, di un'idea dell'uomo, dell'essere umano che sia laica, che sia atea, che sia libera da schemi precedenti. In questo senso, dicevo prima, il lavoro ruota intorno al pensiero di Fagioli, che ha questa impostazione assolutamente atea e, se vogliamo, rivoluzionaria. Insomma, noi pensiamo che la vera rivoluzione, la prima rivoluzione, debba essere nel pensiero, nel pensiero sull'essere umano. Quindi Essere vi umano, quindi rivolgete a mondo. un pubblico ben preciso. Però possiamo dire che, insomma, con queste pubblicazioni vi aprite anche, no, ad altre fette di pubblico, semplicemente appassionati di magari autobiografie, non per forza una fetta di pubblico che sia legata a quello che dicevi tu. Con questo libro noi vogliamo mostrare che ci sono persone che nella storia che hanno fatto una loro ricerca, una ricerca sulla loro identità, e questo a Joyce Lusso lo racconta perfettamente, proprio una storia di una vita molto movimentata, molto burrascosa, ma una vita splendida quella di Joyce Lusso. È famosa per essere stata, per essere la traduttrice di Nazım Hikmet, un grandissimo poeta turco, però è stata anche la moglie di Emilio Lussu, partigiano, combattente, appunto, partigiano, combattente anche nella Brigata Sassari durante la Prima Guerra Mondiale, autore di Un anno sull'altipiano, appunto, che racconta. Nonché ministro, poi, nell'ultima parte della sua storia politica. E Joyce Lusso è stata la sua moglie, la sua amante appassionata, come si legge bene da questo libro, ma ha cercato tutta la vita una sua strada che fosse indipendente da lui, che non fosse alla sua ombra, come dire. Diciamo che lei già veniva da una famiglia molto altolocata, che l'ha fatta studiare nei migliori posti, parlava non si sa quante lingue, aveva già un matrimonio alle spalle, era una donna che già di per sé aveva dei numeri. Dei numeri, bravo. Dei numeri, tutto a posto. Poi incontra, appunto, come dicevi tu, Emilio Lussu, che lei dice essere, insomma, lei lo riconosce subito, che è l'uomo della sua vita. Esatto, sì, c'è questo racconto nel libro bellissimo di una notte passata in Sardegna in una piccola casetta di fortuna, mangiando soltanto qualche erba raccolta nel bosco, qualche radice raccolta nel bosco da Emilio, che aveva queste conoscenze contadine dei pastori sardi e che quindi riesce a trovare queste piccole cose. E insomma, c'è questo racconto proprio di questo amore fatto di cose minime, di cose poverissime ma straordinarie, insomma, no? Ma assolutamente. Lei lo convince a sposarsi, perché lui era un po' refrattario al matrimonio. Lo convince a sposarsi quando rimane incinta, o meglio, quando il figlio sta per nascere, perché lui gli spiega, eravamo alla fine della guerra qui a Roma, e lui gli spiega che non avrebbe potuto riconoscere il figlio, e quindi doveva essere figlio di uno dei genitori, o di madre ignoto o di padre ignoto, e quindi lei si convince, o meglio lo convince a sposarsi per riconoscere il figlio, questa, poi, perché in realtà il loro amore era assolutamente oltre queste cose. Sì, assolutamente, queste convenzioni anche perché tu ci dicevamo della grande cultura, diciamo, di questa donna che appunto farà la traduttrice, parlando tantissime lingue in una maniera assolutamente originale, peraltro, perché lei in realtà non ha mai saputo il turco, non ha mai saputo le lingue quasi nessuna, il curdo, perché lei li va a trovare, il famoso poeta curdo, esatto, lei li va a trovare e si inventa questo modo, parlava comunque tante lingue, francese, il tedesco, ecco, l'inglese, il curdo magari non si studia esattamente all'università o al liceo, ecco. Però lei che fa? Si inventa questo metodo per cui li va a trovare attraversando frontiere, paesi pieni di pericoli, peripezie complicatissime per arrivare a trovare, a scoprire questi poeti che magari sono in prigione oppure vivono in chissà quali posti lontanissimi, e costruisce la traduzione parlando in francese, in inglese o pezzetti di parole raccontate, per arrivare a una traduzione che fosse soddisfacente anche per il poeta. Quindi anche tutto Hikmet è stato tradotto senza che la Lusso abbia mai saputo una parola di turco. Fantastica. E lei poi stessa racconta che i filologi poi non avevano niente da ridire, cioè queste traduzioni erano perfette, come se il rapporto con questi poeti in questa maniera così particolare fosse la strada giusta per poter fare una bella traduzione. Poi la poesia insomma, è una cosa un po' complicata da tradurre, perché lì non è che si Certo. tratta di tradurre letteralmente, ma si tratta più che altro di rendere il suono, il senso, chissà, questo ineffabile che c'è nella poesia, E poi. poi l'impegno politico, già dalla sua famiglia d'origine, con il fratello, ancora poi con il marito, insomma, che la porterà in prima linea. Ma lei come racconta se stessa? Con che tono racconta la sua vita? Beh, la racconta come una vita burrascosa, lei ne è perfettamente cosciente. Una donna lo sa, insomma, lo dice, una donna anche difficile, una donna che è dura, che ha affrontato tante cose, anche molto complesse. Per esempio, lei aveva una serie dei suoi parenti che avevano aderito al Partito Fascista, erano anzi dei sostenitori del Partito Fascista, e questa era una cosa che la mandava su tutte le furie, mentre lei era proprio dall'altra parte. Aveva anche delle conoscenze molto importanti, racconta molto bene di Benedetto Croce, era un suo amico, una persona che conosceva molto bene. E ne racconta anche degli aspetti abbastanza sconosciuti, come il fatto, per esempio, che Benedetto Croce fosse un proprietario terriero e trattava i suoi contadini, i suoi lavoranti in una maniera terribile. Racconta degli episodi veramente cattivissimi di questo grande filosofo, che poi, quando invece ci si sposta su un piano più pratico, più umano, si rivelava essere, si, insomma, lui racconta essere molto poco umano, diciamo così. Sì, insomma, poi c'è molto altro in Sì, c'è questa tantissimo. autobiografia che si chiama Portrait, che racconta la storia incredibile di questa donna che nasce Gioconda Salvadori. Gioconda E poi Salvadori. diventa Joyce Lussu, prendendo il nome dell'amato marito. Prossimo titolo per questa collana già in ballo? Abbiamo già due titoli in corso di lavorazione, il prossimo è un titolo di Silvia Paraghir, che è una scrittrice argentina, è un titolo abbastanza bizzarro, perché il titolo è Il ragazzo dei seni di gomma, che non è, come potrebbe qualcuno pensare, non si riferisce a storie di transgender o cose di questo genere, ma è semplicemente un ragazzo che vende dei seni di gomma, quelli che servono, quelli antistress, ed è fondamentalmente una storia d'amore, adesso senza andare a entrare troppo nei dettagli. E poi abbiamo per la fine dell'anno invece un libro di Kalis che si chiama La Luna e il nostro Sole, un libro tedesco pubblicato da Fischer in Germania, molto molto bello, che racconta anche lì una storia d'amore, come dire, il riscatto di un ragazzo semplice di periferia, che attraverso la storia d'amore con una donna trova una sua strada, una sua identità. Bene, per ora Joyce Lussu con Portrait, edita dall'Asino d'Oro. A fine mese la troverete nelle Sì, a fine mese, librerie. perché c'è stato un problema con la neve, quindi il Eh già, 17 purtroppo si è non slitta sarà la data. dappertutto per questioni logistiche. Ci scusiamo, purtroppo queste sono cose È così, insomma, ne abbiamo incontrollabili. passati di Ne abbiamo disagi. passati diversi. E poi l'Asino d'Oro Edizioni.it, se volete farvi un'idea su quella che è questa casa editrice molto giovane, romana. Grazie a Matteo Fago per essere stato con noi, in Grazie bocca al a lupo voi. per tutto.